Friuli nel mondo. 109ª trasmissione dedicata agli emigrati. Canzoni del Festival 1962 di Pradamano. Vogliamo presentarvi, cari amici in ascolto, un secondo gruppo di canzoni friulane eseguite in occasione dell'edizione 1962 del Festival della Canzone Moderna Friulana di Pradamano. Le tipiche composizioni dei nostri giovani autori sono state interpretate da cantanti dilettanti che con sincerità e cuore hanno confermato la validità di questa sagra canora del Friuli. Beppino Lodolo canta ora C'è tant biel di Dante Visentini su versi di Guido Michelutti. A le un che non sconde, non ci miez dal paradis, di bessoi non si sta ben. C'è tan biel, quanche di sere, lo vedete a capità, e cumò a noi parvere, cal no vedi di tornar. Colo incontre la bestrade, lui si met a sibilà, ma gli fa la spensierade, ma il soccur vuole sclopar. L'enzardì, cincione rose, una vite senza amor, anche gli esse ne cose di un fregul di calor. Le un che non sconde, non ci miez dal paradis, di bessoi non si sta bene. C'è tan biel, panche di sere, lo vedete a capità, e cumò a noi parvere, al novedì di tornà. Colo incontre la pestrade, lui si me assimilà, ma gli fa la spensierate, ma il soccur vuole sclopar. L'enzardin, cenciune rose, una vita senza amor, anche gli esse ne cose, di un fregul di calor. Ascoltate la canzone dal titolo Cevoleso di Fiorello Braidotti su testo di Elda Vogrich. Canta Dino Furlanetto. Cevoleso che os disi, ma si volte il mondi vuoi. No si ati sgrisullasi, dolla mai lino a fini. Vue di mode son dall'ara, beppi capri e giosenì. I se non c'è malandrete, chi stere dal tuì. Nell'esercizio lentano, bella guerra vinzara. Son la mina e Jenny Luna, che sa un nome svele. Vince 4000 bussati, lor s'andasi tu partù. Potti vio di la paraia, lui di mil bofolis blu. Duce Urlin, duce Sperling, quella musica a cambia. Noi e blu la melodia dalla nostra bieletà. Vue di mode son dall'ara, beppi capri e ciò sentì. I se non c'è malandrete, chi stere dal twist. L'esercizio lentano, quella guerra vinzara. Son la mina e Jenny Lune, che sa un nome svelia. Vince c'è 4.000 bossati, lor s'andassi tu partù. La la la la la la la la la la la la la la. Nell'esercito serentano per la guerra vinzarò. Son la mina e Giannilone che san nome svelea. Vince 4.000 bossadis, lor s'andasi tu partù. Potti vio di la parraiar, lui di 1.000 popolis blu. Nine Nane a Pradaman, musicata da Claudio Noliani su testo di Maria Gioitti del Monaco, è cantata da Holga Chiussi. Salis agnolud iuda circus es volade finca iuta etum ietut passerine pittinine cundos Dagnolud, iuda al cielo, tu sei svolade, finca iuda al tuo ietut. Ding dong dang, ding dang, ding dong dang. Lis Japanis di Pradaman, ding dong dan, ding dan, ding dong dan, ding dan, dua ti chanti, Lis Japanis. Lis Japanis di Pradaman. Bruno Marmai canta Mons de Ciarnie di Giancarlo Pagani. Suning lis champani, suning lis champani, dal mio paese. La yarin dai mons de charni, mi si vile flam plani, lui mi dis nosta la via. Resta in Ciarnie, resta ca. Mi ricordi li sridadis e li scorsi siu pes ribis ducinis roba saple. La iarin dai mans de Ciarnie al continua fevela. Lui mi dis nosta la via. Resta in Ciarnie, resta ca. Oscuni torna via, pal mond lontan de case, a salva il mio cuore. Ricordi gli sridati e gli scorsi più pesrivi, tutti ne roba saple, l'aia rinda i mans de charmi, mi ci si che plan plani, lui mi dis non sta la via, resta in charmi e resta ca, lui mi dis non sta la via. Resta in Sarnie, resta qua. Nell'interpretazione infine di Rinaldo Moretti ascoltate i Kunskritz di Pietro Someda De Marco, musicata da Romano Donato. Sin la classe più moderne, coi missili e coi Sputniks, o sin che le stratosfere che apprenne volate in un bot cullamose, in telune plombarine lassù, se ho v'infortune pasarin il nestrinit. In telune blombarine lassù, se ho v'infortune pasarin il nestrini. Cuscrite si è grande ligrie, si pensi alla lune, sarà gran fortune, murose murosis, riva fin lassù. Sin la classe più moderne, coi missili e coi Sputniks, o sin che le stratosfere che apprenne volate in tumba cullamose, in telone blombarine lassù, se ho v'infortune pasarin il nestrini. In tumba cullamose, in telune blombarine lassù, se ho v'infortune pasarin il nestrini. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.